Giuseppe. A Bancari. Cosa c'è di Gemia? Ah no, sto facendo una cosa. Ah, mi sta arrivando bene. Fermoci la pagina. Eia. Ah? Cappaga. E te mi conta già. Lavoro c'è più bene. Non mi ha pagato, non mi sono andato. Non ti ha pagato? Beh, a due mesi per toccare. Sì, il cane è morto. Oh, io. Ha trovato tutti a testa a festeggiare, boh. Uno peggio di là. Non hanno fatto da casa, ce lo convocano, sono sulle cose, hanno sentito i regali, così. Ma cosa se ne è andato, lascio? Ma se non l'ha cavato. Ma è morto. E adesso... Beh, certo, ha fatto bene che l'ha denunciato. Sì, esatto. E se non mi paga, anche se mi è legale, da qui. Io adesso potrei andare. Ti deve pagare per forza per via legale, non ci passerà un anno, ma bene o male ti deve pagare in qualche modo. Se tu mi metti da solo una carica in salina, perché insomma non ci deve più salire a sacco, perché non ci deve più salire, diciamo che la più anche quelle che si collegano. È ritornato quello che c'era prima. Un altro collega che fa lo stesso grande, sono io e sono l'altro collega, lo stesso grande, se può salire. Ma non ci deve salire più a salto, perché se sono salto di non ci metto la pista per caso. Oh, io, che bastardo. Cioè, non ti ha pagato manco un mese. Mi è mancato, mi sono entrato, tanto andata lì uno quando è bravo lo pigliare sempre per il fondo lì. Tu fai, se non bastante lo sei andato anche a rispetto al tuo lavoro. Tutto quello che possiamo andare si chiama abbinato, ma si è abbinato, vedrai che devo finire. Ti ha fatto fare tutti quei chilometri con la macchina, ma con la nafta da bagare. Poi, quando pensi di avere qualcosa in mano, butti crolla di durante in alto sempre, e va bene, cari. Uno non è per più, certo, non è conquisti, dai. Interessante che ne trovi un altro, ti dimentichi che ci pure di ghiscio. Cazzo, è che ha fatto più sacrifici, è quello che gira le balle. Cazzo, è viaggiato, è fatto. Non passarci dalla ragione al totto, perché poi è peggio. Tanto questi miserabili campano così. Futtini a te, da buio dentro un altro, futtini l'altro, ci si andano dentro una stancura, e campano così, si fanno tutti i mesi così. Da casa c'è Parugioio, che fate come antichito, non dire a terra alba, cosa ha ammazzato lo Zuzzi, il coso, il consulente e l'altro socio, tutti e tre li ha ammazzati, perché dice che lo ricattavano, non so che cosa, mi sono esciso di capo, poi ha ammazzato di tutto. Io e quella che è andato Boval, che ha bisogno di lavoro soprattutto. No, non c'è gente Senti che ci mette la mano sulla coscienza quando vede uno lavorare. Io a me mi viene il duro nel calpare a fare dire a rotta e pedale. Il duro nel calpare mi va tutto la mano. Mi fanno male tutte le dita, tutto il cazzo in questo periodo, poi sto lavorando come un negro, cazzo. E la gente quando finisce il contratto li manda a casa, non ne rinnova più e quindi siamo rimasti quattro gatti. Cioè tutti devono imparare e di gente professionale non ce n'è, capito? Solo che allora il lavoro glielo svolgono in una maniera o nell'altra, glielo svolgono, capito? Quindi che della professionalità non è una fattiuta. E vabbè, in Natali continua a fare domande in comune, già voi vi dica. Tanto non ti avevamo anche assicurato questo. Questa è una borsa in mano, 4-3. Già mi senti, se voglio farmi sentire già mi senti. Cioè, aspetta, quanta bella gente di andiamo. Cambio! Cambio stavo dicendo, sono tutti uno più male pagato che l'altro, non ve ne uno che ci sa, che era con il vanno. Tu dicendo, ci fate tutti i nostri sintassi che vanno per via legali, poi c'è tutto di conseguenza io. Sei giovane? Sono appena più grande di me. Vabbè. Ma lo fa perché non può farlo o perché... o perché lui è così? Lui e la moglie così sono. Sono dei grandi bastardi. Però io penso che è stata più adesso. Non si presenta, ma non è se andare in giro, non si è capito di una toccata. Non ti compromette, che paghi a Gioventù che pure tu. Io la prima ultima ti compromessa a chi ci vuoi e dopo mi vuoi un po' mangiare. Dopo già lo trovo anche qualche burrone. Chi ha pagato? No, non è finita. Dopo ti pongo la mamma e nella figura. Perché se mi posso accennare a chi vuole farmi? Se non mi paga, sono stati da cagare. Là. E infine lo cambio giù pure, lo posso andare a cedere a rotelle perché ti trova fucilata a calettoni a gambe. Diventi un rampo. Ma perché? Ma da là sarei forse a chi? Se sono andato a cedere a rotelle, te lo scuso. Scusa? Però sono disgraziato, perché uno quando ha lavorato ha il diritto di essere pagato. Cavolo. Fa solo avere, deve avere anche il compenso. Sì. Io faccio tanto il fanno passare il Natale senza su e poi. Davanti di fatti non c'è niente da perdere, eh? E allora adesso c'hai hai la famiglia. E la famiglia. Vediamo se non da perdere. Cappa. la bottiglia non fila. Che sono, non so come sono, comunque va bene così. Vediamo un po' se è diventato Natalino. Natalino, ci sei? È Natalino uguale, dai, è uguale, ma te va bene, io ti sento benissimo. Ma lui, non lo so, ma senti che Natalino, Gianni, chiaramente. Insomma, lui ha il baracchino normalissimo, con il microfono nel mare, per quello, capito, la radio è bassa per quel motivo lì, però se sentiamo 4, considera che lui è in macchina, dunque, a 30 km e oltre da Sassari, non è poco, e va bene così, ne prendo lì. C'è la bancata in una zona d'ombra, non posso aumentare nulla perché il microfono è normale. Appunto, Natalino, sì, ho capito, senza l'auto, sì, quasi, qua, vabbè, è la radio, il 5, anche il 5 da poco, ma il microfono normale, chiaramente, ma glielo ho già spiegato a Gianni, che il microfono è normale che sei in macchina. Lui ti sente, ma magari ha un po' di difficoltà, se tu fai avanti un pochino il tono della voce, probabilmente ti riesci a sentirti meglio, capito? Va bene, dai, riprendi la taglia, fai girare per Gianni il dinamito di Chiaramonte. Ma se tu non mi sente, riprendi Gianni. Sono a Bancali, sono fuori Sassari. Sono a Bancali. Ok Gianni, beh sì. Sì, ti ho già spiegato quella situazione, no? Lui è in macchina, si trova nelle campagne di Bancali e dunque in una posizione per la tua zona probabilmente non molto buona, è per quello. Io lo sento benissimo, qua Santiago 8, tranquillo, Radio 5, non ci sono problemi. Dunque, ripeto, Natalino in questo momento è impossibilitato a installare l'antenna a casa sua. Hai capito? E allora, ma è solo questione del tempo, è solo questione del tempo. Parlo molto, vedrai che lui sarà tutto l'ultimo quella una volta, perché prima usciva sparatissimo. Va bene, dai, riprendi Natalino. Che cazzo, dai. Io ti aspetto, dai, che sto facendo una commissione qua. Sentiamo un po'. Ti aspetto, dai. D'accordo, Natalino. Fatti vedere. Fatti vedere in bottega, lunedì, se sei libero, che andiamo a prenderci il caffè, così almeno facciamo una chiacchierata come io, anzi come la mattina mi sembra, se no, no, come mercoledì, forse mercoledì, vabbè dai, già me l'hai capito comunque, non è un problema. E quindi già, io in quello rischio perché ha da fare una commissione, dunque al momento non puoi parlare, d'accordo, avanti, riprendi già, capito, ormai in Gianni non puoi parlare al momento Natalino, dunque già lo sentiremo un po' dopo, magari più tardi, non lo so, oppure domani, non lo so, adesso non può perché è in una posizione che poi sta facendo la commissione, dunque non può parlare, riprendi già, cosa stai usando adesso? Cosa ti hai comprato? Il DMI ti hai comprato? Il microfono DMI ti hai comprato? Ho capito. Ma chi l'hai preso? Dalla Ion Repubblica l'hai fatto arrivare? Sì, dai, se vuoi dare una puntina di eco, poco, è bello lo stesso, e probabilmente aumenta anche, però va bene, appena, non molto, perché quando è troppo ripetitivo non mi piace, è la verità, ma se c'è una piccolissima puntina di eco va bene, riprova, vai. Cosa sto strappando io? Io ti sento bene, non lo so, a meno che non ho, vediamo, a meno che non ho la batteria scarica, perché questo microfono consuma tante di quelle batterie, è una cosa incredibile, boh, è veramente, boh, com'è che sta andando? Poco, no. Poi questa è ricaricabile anche, però 10,50 mi sembra, se ricordo bene, lì alla, da Bricomel, ma deve essere un pochino, la batteria è un po' scarsa. Sì, tutto strappato lì. Strappato sono io, caspita, buono. Allora la batteria scarica, già mi... Aspetta, vogliamo, è così, non so se è il microfono, l'ho abbassato adesso qua. Forse è il microfono, se vai meglio. Ciao, ciao a tutti, rimando ancora lì. Ok, ciao qua. Come mi senti Gianni? Ho abbassato il microfono, forse era troppo alto, non lo so. Ehi, dovevi aprire, dovevi togliere il tappo là sotto, non posso adesso in questo momento. In questo momento non posso. Io al massimo posso cambiare il baracchino. Aspetta che cambio il baracchino, dai, fammi cambiare l'antenna e basta, così uso l'altro microfono. Buonasera a tutti. più rum. Chiappa, chiarissimo. Gianni, non credo più rum, buonasera anche a te. In compagnia di Giulio e di Gianni Chiaramonti. Avanti Giulio. Giulio. Ok, ciao Gianni, salutoni. Ben entrato. In quel momento ci abbiamo anche a Claudio e se lo vuoi salutare. Lui magari non vuole al momento parlare perché evidentemente sta facendo cose, ma un saluto penso che le faccia piacere da parte vostra, che noi ci siamo già sentiti. Avanti Alessandro. Okay. Salutoni anche a Sparviero, anche Claudio da Sassari, anche se lui vuole anche se al momento in cui Enrique si ascolta, evidentemente col camice bianco qui fa operato qualcosa. Va bene, Gianni Chiaramonti. C'ho l'eco. Scusate ma non me ne sono accorto, Ok, eliminiamo l'eco, che l'eco non mi sta bene. Gianni, decentemente ti ascolto come al solito. Qui da parte mia un Santiago di 7 e una radio di 4, ora mi rendi conto che c'è anche un po' di QRM, quindi diciamo comunque riesco a tirarti fuori benino. Sai cosa vuol dire la 27? benissimo, vai. Ok, riprendi Giulio. No, Gianni, devi capire questo tu, perché alla volte magari una persona può anche sentirsi non accetta di questo, ma in realtà quando c'è molto correndo, non è che noi possiamo fare miracoli, ci mancherebbe. Ecco per quale motivo ti ho chiesto io con quale antenna sta uscendo, perché a noi ci fa piacere sentire bene tutti quanti gli amici, capito? Se hanno necessità di un aiuto, perché magari l'individuo è troppo esperto, noi siamo sempre disponibili, basta fare un fischio. Io posso anche capire che tu non vuoi aiuto da nessuno, però devi anche accettare il fatto che quando ti si dice non sta arrivando bene, sei in mezzo a tua rete, purtroppo la colpa non è la nostra, capito Gianni di Chiaramonte, qual è la storia? Ma aspetta un attimino, Gianni Chiaramonte, che apparato stai usando? Lafayette con la LED? Aspetta, potresti avere anche un armadio come apparato, eh? Io pensavo che fossi usando quello a LED. Evidentemente, diciamo, nella zona in cui ti trovi, QRM ne hai di meno, capito? QRM ne hai di meno, va bene, dai, Gianni, doppio room. Ehi, già il Petrus, sai? Ma fai niente, Petrus? Compiato, dimmi. Bravo. Cavagava, ma io ti ho sentito in migliori condizioni, prima, con la antenna, figura che arrivava il più forte con l'altra. Secondo me mi ha combinato con questa antenna, non è possibile che arrivi così basso con un avanto. Un avanto va, anche se sei un fuoco, riesce bene o male a farti sia un po' più forte. Mi sembra... Vabbè, che sia anche il fatto del QRM, non lo so. Giulietto, avanti! Ok. Ciao Antonio, ciao Antonio. Vabbè, ma noi abbiamo spiegato tante volte cosa vuoi dire, evidentemente lui rappresenta un altro modo, direttamente a lui. Avanti Antonio! Ciao Giulio, buonasera. Ciao. A me ti dico una cosa, che tanto uno è negativo, non c'è nulla da fare, arrivare a Sassari, puoi fare che ti pare di piace, ma è difficile stavolta qua, quando c'è la negatività non funziona nessuna antenna, e quello lì sia ben chiaro, se bisogna aiutarsi il più possibile per farsi sentire. E a tu. Intanto ti saluto, no, aspetta un attimino, perché ci sono stati altre volte che l'abbiamo sentito benissimo, non bene, benissimo addirittura. Siccome lui è alle prime armi, no, sta sempre sperimentando, capito? Comunque c'è con lui qui in questa frequenza c'è Alessandro la Porto Torre, c'è Gianni lo più lungo, poi Gianni la Chiaramonti e il QRX c'è anche Claudio. Avanti, dipende parte di voi. Giulio, volevo dirti che non c'è nulla da fare, inutile. Lui quando tu l'hai sentito bene è perché è salito in un monte e si è messo lì a parlare, ma da casa sua quando una zona è negativa puoi fare un che ti pare ti piace, sempre negativa è, non c'è nulla da fare. Puoi migliorare mettendoci un amplificatore, puoi avere dei piccoli vantaggi, però è sempre negativa, lasciate così. Ok, vabbè, facciamo girare, avanti Alessandro. Ok, dai, salutone mia Antonio Giuseppe, adesso non mi viene il nome in attivo, mi dovrai scusare. Ma purtroppo la posizione di Gianni doppio room è una posizione un po' particolare. Verso Sassari, diciamo, verso Porto Torres, lui ha un monte, quindi il segnale, il fatto rimbalzo non è un segnale diretto. diretto, capito? Non è un segnale diretto, li fate a rimbalzo. Bersanzani magari potrebbe essere un po' più negativo, io bene o male diciamo riesco diciamo ad tirarlo fuori, però logicamente dipende diciamo dalle giornate. Adesso per dire oggi per dire OQRM Santiago, Santiago 5, Santiago 7, e come sappiamo benissimo diciamo oltre il segnale che è il segnale relativo dietro la modulazione ci potremmo portare dietro anche diciamo un po' di QRM, quindi che sia una Mantova, che sia un'antenna di alta di avanguardia, la posizione QRM è sempre quello lì. No, stavo spiegando a Gianni di Chiaramonti queste questioni qua, diciamo, è inutile che uno per dire si debba scervellare, si debba magari lì incacchiare, incavolare, dice cazzo, ma non riesco ad arrivare a Sassari come vorrei io. Purtroppo la 27 è fatta così. Sì, ma poi c'è da dire questo, io va bene, ci vuole anche un pochino di esperienza, eccetera, eccetera, trovando in una posizione così, diciamo, poco buona, dove si trova lui, così, poco favorevole, diciamo, per Sassari, io sinceramente mi avrei comprato la direttiva, e avrei utilizzato quella, e a Sassari si è tagliato il passo di sicuro, tutti avevo un segnale fortissimo a metà, io avrei fatto di tutto, ma sarei arrivato, guarda. Ok, sono d'accordo con te Giulio, e purtroppo quando diciamo uno si trova penalizzato diciamo nella posizione in cui si trova, logicamente diciamo non è che uno può fare diciamo i salti mortali, e diciamo secondo me diciamo molto importante diciamo la posizione in cui uno si trova, e se è penalizzato diciamo all'infuori, giusto come stavi dicendo te, mi prendo una direttiva, carico lì, punto, e sbatto lì, ma siccome lui alle spalle c'è sto monte, e quindi non è che diciamo può pretendere diciamo di poter diciamo per scavalcare il monte miracoli, purtroppo c'è questo problema. Deve mettere l'anima in pace, se vuole proprio arrivarci qua. Deve mettere l'anima in pace e piglia via con traliccio di 30 metri, allora la musica potrebbe cambiare. Ma finché è così, no, non cambierà mai. Quando c'è la negatività è quella la ragione. Ecco, lui tiene presente che abita a Chiaramonti all'altezza di 8500 metri sopra il livello del mare, perciò non credo che sia così difficile da poter realizzare un bel impianto per farsi sentire discretamente a Sassari. Non dico che deve arrivare per forza a Santiago Longo, però almeno se non altro 7-8 con una radio buona non deve arrivare per forza, guarda, perché se no è tutto. Ripeto, lui ancora ha le prime armi e dovrà fare un pochino di esperienza, ma suppongo che col tempo riuscirà a fare molto, ma molto di più di quanto ha fatto fino adesso, non ci sono dubbi. Va bene, vediamo se c'è ancora Gianni. Va bene, io devo lasciare, parto a fare le commissioni, ce la risentiamo dopo. Va bene, ciao a tutti, ci sentiamo dopo. Confuso il radio con QRM, è solo questo il problema. parlando con te nella maniera migliore. Tu mi hai detto che abbiamo trattato con te d'accordo con i radiali in alluminio, non è una morta da allora, questo è fuori discussione, non sono più che convinto. Va bene, va. Vediamo se c'è ancora, c'è la voce, sì, sì. Va bene, se vanno con il cuore di tutti voi. Avanti Alessandro. Ok, dai. Ok, ok, e vabbè, piano piano diciamo, Gianni, doppio rum, Gianni Chiaramonti, non te la devi prendere, non ti devi offendere se ti stanno dicendo la pura realtà, capito? La pura realtà con come ti ascoltano, come non ti ascoltano e questo e quell'altro. Se per dire Claudio, io o Giulio abbiamo QRM e questo e quest'altro, non devi prendertelo male o questo e quell'altro. Purtroppo diciamo capirai piano piano come è composta la 27. La 27 purtroppo c'ha il pro e il contro. Quindi piano piano, io molte volte ti ho detto, piano piano, con santa pazienza, perché dalla 27 guarda c'è sempre da scoprire, sempre da escogitare. Quindi piano piano anche tu vedrai che dalla 27 ne avrai le tue soddisfazioni e quant'altro, dai, così. Ok, vediamo Gianni dottor Roma, perché ho visto il segnale, mi sa che è arrivato a capolinea. Ah, io vi saluto tutti cordialmente, ho fatto bene, mi è rilasciato. Vi saluto tutti cordialmente, sono arrivato ora. Ci sentiamo, buon continuo con te, ci sentiamo. Ciao Gianni, doppio Roma, buon trabacco, buon tutto, se coincide a più tardi, dai. Ok, riprendi Giulio. Ok, ciao Gianni, buonasera, buon lavoro, ci sentiamo eventualmente stasera quando sali, siete bene, eccetera. Va bene, ok. Aspetta, voglio chiedere, un parere a Claudio. Claudio! No, Claudio, non dipende, vabbè, pazienza. Sarà per la prossima volta. Ma così io volevo dire, l'antenna lui l'ha piazzata, l'ha rifatta, ha messo lineareti, ha cambiato baracchini, adesso si è comprato anche il DMD del microfono. Però la sostanza è sempre quella, lui che sta cambiando campo, come ho detto, perché ha cambiato di nuovo campo. Se non c'è l'antenna, se non c'è una buona, diciamo così, accordatura, eccetera, siamo sempre da capo, ci vuole una mano un pochino più esperta per poter piazzare questa stazione e farla arrivare come si deve anche qui a Cassari, anche quando c'è un po' di problema, ma non ci dobbiamo tirare fuori con tutta questa difficoltà che abbiamo, capito la cosa? E si conferma Giulio, diciamo, sappiamo benissimo che le basi principali innanzitutto diciamo è l'antenna, chi comanda è l'antenna, poi dietro ci sarà l'apparato, poi ci sarà un mic amplificato, insomma è quant'altro, però logicamente l'antenna è colei che deve irradiare, diciamo, il segnale e deve far viaggiare, diciamo, la nostra modulazione. E niente, io lo stesso per esperienza all'inizio, come penso tutti, inizialmente da inesperti, io parlo da inesperti, le prove ne abbiamo fatto 10.000, il cavo che non andava bene, l'antenna che non andava bene, l'antenna perché non era un'antenna adeguata, diciamo, alla 27, non era una 5 ottavi, era un quarto d'onda, insomma, tante cose, tante 10.000 cose una dietro l'altra, e quindi diciamo, a parte la posizione per dire, adesso per dire, io parlo della mia posizione, in cui mi trovo, diciamo bene o male, diciamo, sento quasi tutti, però sono molto penalizzato per Alghero, io sono penalizzato molto forte, ma perciò lo so, Si incontravi. Però diciamo non è che ne possa fare una malattia perché con Alghero non riesco a modularci, diciamo, a parlarci. Sassari per dire con Alghero è favorevole, però io sono negativo, ma perciò diciamo non è che ne devo fare una malattia. No, no, assolutamente, sì, ma è la stessa cosa, ti dico anch'io, io con Alghero lo stesso, anche se riesco a sentirli, riesco a sentire a loro, ma bassissimi, mi sento lo passo e mi sento bassissimi anche a loro, proprio, infatti, non è che se devono fare una malattia, ma tutto è questo, che, ma sto passo va a dirmi, ecco qual è il problema, capito? Vabbè, ripeto, fa l'esperienza Gianni, no, perché a noi ci fa piacere incrementare il numero dei cipini o a metà, e dunque stiamo cercando di tutto per poter allargare diciamo così, il numero delle persone, frequenza, e se arriva uno dal paese ci fa piacere, ci mancherebbe altro. Ecco, pertanto tutti i consigli che le diamo, le diamo a fini bene, non è che non vogliamo offendere nessuno oppure non accettare di avere qualcuno, ci mancherebbe altro, siamo contenti quando arrivano modulazioni nuove, ragazzi, accettiamo anche con il Bonomo che arriva bassissimo, eppure lo sentiamo e ci parliamo, anche se sinceramente alle volte lasciamo perdere, ma non è capito, non è il caso. Ok, senza offendere a nessuno, però è così, io sto dicendo semplicemente la verità e basta, capito adesso? Eia Giulio, eia, sì sì, no, ci mancherebbe altro, a noi diciamo sentire nuove modulazioni ci fa piacere, diciamo giusto per tenere viva questa 27, questa unica passione diciamo che ci è rimasta, tutto lì, quindi... Ma io adesso per dire, io ascolto molto bassissimo, riesco a tirare fuori per dire a Gianni lì da di coso, come si chiama? Gianni da Muros mi sembra, che adesso non mi ricordo, Gianni Capri 2 per dire è una posizione almeno qua per Porto Torres, per Sassari Marea magari è vicino e riesce a farsi sentire, ma qui a Porto Torres Gianni Capri 2 per dire è un po' negativo perché si trova in una posizione un po' particolare, ma per questo diciamo non è che uno debba fare diciamo i salti mortali, purtroppo la realtà è quella lì. Come Gianni Chiaramonti, niente di strano che con Gianni Chiaramonti con un pezzo di filo magari riesce a uscire meglio di un'antenna. Sì, beh sì, anche Gianni Capri 2 in realtà non arriva molto bene, però lui ha più esperienza e riesce in qualche modo a farsi sentire, questo è scontato, anche nei giorni meno favorevoli, capito? Anche quando c'è un po' di guerrere, perlomeno io qui nella mia stazione riesco sempre a sentirlo discretamente, perché quando non lo sento bene io lo dico e lui poi lo vede, capito? E niente di più, perché sa come deve fare, magari cambiare apparato più potente o attaccare un lineare, che so io, insomma diciamo che ha già ne capi due, ripeto, io lo sento basso, lui sa sempre a me, ma non riusciamo a andare avanti nel dialogo senza nessuna difficoltà, capito? Sì, ma è così, dai, ma è così, ma è l'esperienza diciamo a cui porta diciamo pian piano diciamo più che altro diciamo la passione che ti porta pian piano diciamo a andare a scoprire determinati punti interrogativi. Tutto lì, ma delle volte come tu sai benissimo basta uno spezzone che per dire una salvatura magari non a buon fine, una salvatura a freddo, uno spezzone per dire non regolare, insomma tantissime cose, guarda, tantissime. Ah beh, certo, credo sì. Io, vabbè, in questo momento non è che sono nelle condizioni migliori, perché la mia antenna ci mancano la metà dei radiali, eccetera, eccetera, però diciamo che lì nel massimo riescono a sentirmi ugualmente un po' dappertutto e riescono a ascoltare anche tutti. Mentre invece oggi, a differenza ad esempio di domenica scorsa o di sabato che fosse, non mi ricordo bene, a Gianni ho dovuto inserire la LL, praticamente l'amplificatore di antenna ho dovuto inserire per poter capire quello che diceva. Diversamente oggi non l'avrei ascoltato nella maniera più assoluta, capito? Io di solito modulo sempre con il malachino, diciamo così, silenziato, dai, e con l'antenna tu sai la LL per favorire un ascolto maggiore, però hai anche alle volte più QRM, chiaramente, perché più recessione. Però oggi con inserendo la LL sono riuscito ad ascoltarlo. Diversamente facevo fatica ad ascoltarlo, capito Alessandro? Capo. Ok, sì, ma logicamente hai un'antenna che ha i suoi anni, che ti mancano dei radiali, quindi evidentemente la mancanza dei radiali, la ricezione per dire è un 50%, però nella modulazione ti rende per dire l'antenna. Però logicamente esperienza che voglia ti ha portato ad aggiungere per aumentare la ricezione, che è un problema di ricezione bassissima, hai dovuto attaccare un amplificatore d'antenna per aumentarti il segnale. Magari uno che non sa che cos'è un amplificatore d'antenna, si incavola e dice l'apparato non serve, l'antenna non serve a niente, senza magari andare a capire che magari l'antenna non essendo sufficiente al 100%, il segnale è dimezzato, e quindi magari la tua esperienza ti ha portato ad aggiungere qualcosa per aiutarti a tirar fuori una modulazione. Tutto lì. Sì, infatti è così, è vero, ma io adesso non ho fatto a lui, non è che deve fare una cosa, faccio qualche altro, tutti quanti abbiamo avuto tanti anni avanti per imparare un po' tutti i segreti, eccetera, eccetera, ma quello che lui deve fare solamente, in certo senso, almeno io lo vedo in questo modo, di ascoltare anche lui qualche volta per quello che diciamo. Aspetta che lo voglio richiamare, vediamo se ancora è in corrente. Attenzione che Chiaramucci, ci sei ancora? No, io non lo sento, Alessandro. No, negativo, neanche da parte mia. Vediamo un attimino. Gianni, Chiaramucci? No, evidentemente ho impegnato che sta facendo qualcosa e proprio in cuore richiesto assoluto. Sì, probabilmente sì. Sì, non sentivo una modulazione, ma era solamente propagazione, era uno straniero, una modulazione bassissima, anche quello ho detto. E il problema appunto si verifica soprattutto quando c'è propagazione, basta che ci sia un po' di propagazione che il suo segnale sparisce, questo anche all'età. Maggior ragione per poter cercare di sfruttare al massimo l'impianto di antenna e tutta la stazione in genere, capito? Sì, vabbè, ma è normale, è una una questione naturale, non è che ci dobbiamo porre il problema perché è l'apparato che non funziona oppure è l'apparato che non va bene, e quindi ne dobbiamo fare una colpa all'antenna o all'apparato. Purtroppo è la 27 è fatta così, basta un po' di propagazione, essendo anche a 20 a 30 km di distanza, la modulazione della propagazione riesce un attimino a cavallare la modulazione a 20 km di distanza, quindi è una fase naturale, non è che ce la dobbiamo prendere con l'apparato o l'antenna, è tutto lì. Certo, non di certo, questo sì, lo so, vabbè, che fare di tutto per cercare di, no, perché soprattutto quello che conta è non essere alle porte per valori e pensando che dice magari sta facendo mi accetta, no, non è vero, invece è tutto il contrario, noi accettiamo chiunque, ci mancherebbe altro, anzi siamo contentissimi quando se ne aggiungono di nuovi frequenza, come appunto detto poc'anzi, perciò non vorrei che fosse magari inteso in un altro modo il nostro atteggiamento, che poi non è un atteggiamento, è una realtà questa vera e propria, capito adesso? E si conferma Giulio, lo sappiamo benissimo, allora la 27 diciamo è libera, accessibile a tutti, diciamo, nessuno si è comprato la 27, quindi è una frequenza diciamo liberissima a tutte, logicamente facendone uso nei modi diciamo consentiti, nei modi migliori, è diciamo liberissima diciamo a tutti, ma io Gianni gli ho sempre detto quando hai bisogno di un consiglio, quando hai bisogno di un qualcosa che non ti trovi in difficoltà, bene accetto, se siamo qua bene accetto a darti un consiglio, da parte mia fin dove posso arrivare gliel'ho sempre detto, un consiglio è sempre dato, ma un consiglio bonario diciamo, non un consiglio alla rovescia, un consiglio per procurarti danni o questo e quest'altro, tutto lì, poi essere diciamo, perché uno se la possa prendere a male, perché uno se la possa prendere così, poi logicamente ognuno è liberissimo di intendere, di volere come meglio crede. Sì, beh certo, ma siccome mi rendo conto che è anche un ragazzo intelligente e dunque non credo che arrivi a quello, ecco, non si renderà conto che effettivamente, anche perché glielo diciamo tutti, in linea di massima più o meno, e poi il solo fatto che non riesca a sentire Claudio, ti puoi immaginare, non so, ma sono cose un pochino così, perché se non ce la Claudio la ricezione non la posso accettare da avere io, o avere magari una stazione, io ad esempio sono sotto Sassari, sono di 90 metri, non è poco, perché io abito in Sassari, dunque Sassari 225 metri, io sono a 135 metri di altitudine sotto il livello del mare, perché, eppure bene o male diciamo che riesco a comunicare un po' con tutti. Naturalmente ci sono anche i limiti, questo è ovvio, come tutti del resto, ci mancherebbe. No, siccome altre volte ho sentito Claudio che addirittura non ricevuva anche Santiago Nove, vuol dire che lui era in quel momento in condizioni di far sentire Santiago Nove, poi invece non l'ha ascoltata per niente, ti puoi immaginare. Dimmi Gianni. Ok Gianni, allora da parte tua, rapporto tuo qui da me è un Santiago di 7, una radio di 4, renditi conto che da parte mia ho un po' di QRM, comunque ti ascolto e riesco a tirarti fuori. Scusami Gianni, io ti sto dicendo la mia pura realtà come ti sto ricevendo, se per te un Santiago 7, Radio 4, per te il massimo va bene così, vuol dire che evidentemente stai andando bene, io non so le tue condizioni e le tue posizioni di modulazione di trasmissione. Gianni, le condizioni, ti ripeto per l'ennesima volta, le condizioni in cui stai trasmettendo e con che cosa stai trasmettendo e con quanti watt lo sai solo tu, non lo so io da qui, ho uno smitter dove mi segna il tuo segnale e ti ascolto diciamo come ti ascolto, poi condizioni, se tu hai cambiato casa, se tu sei ancora più basso della posizione in ultimo momento che tu stavi modulando e ti trovi ancora più basso e le condizioni attuali per te vanno benissimo, va bene diciamo, adesso vediamo un po' Giulio se ti ascolta. Sì, lo ascolto, ma Gianni non te l'aveva spiegato che avrebbe cambiato casa, va bene, non è che un prima, ho cambiato casa, non sono più in quella posizione dove ero prima, evidentemente il motivo è quello, basta, noi avremmo capito subito senza fare una chiacchierata così lunga sulla appunto le condizioni tue della stazione che te li trovi. Il discorso è quello, Gianni, riprendi. Gianni, un consiglio, non fare affidamento, diciamo, allo Smitter, perché lo Smitter è un qualcosa di, diciamo, di approssimativo, non è, diciamo, un qualcosa fiscale preciso al millesimo, perché se tu prendi un apparato, cioè, per dire a me mi ricevi Santiago 6, cambi un altro apparato, diciamo, mi ricevi a Santiago 7-8, quindi il segnale relativo, che ha molta importanza, diciamo, è la modulazione, diciamo come tu mi senti, tutto lì, ok, ma va benissimo, capito, va più che bene, ok, adesso io ti rilancio un attimino Giulio, poi ti faccio una prova e ti dico con le mie condizioni in cui esco, vai Giulio. Ok, io il tuo montaggio non l'ho subito perché ho battato tutto il volume perché avevo una telefonata in corso, avevo un cliente che mi ha chiamato e vediamo un po' che cosa è successo. Ah, ok Gianni, d'accordo, sì Gianni, ma i segnali restano tutto che trova, a noi quello che interessa è la radio, ci interessa sempre la radio, se c'è una buona antenna, una buona stazione, la radio, anche se arrivi Santiago 1 riusciamo sempre a sentire, non ci interessa il fatto che tu arrivi Santiago 1 o Santiago 1, no, non ci interessa, nella maniera più assoluta, a noi quello che interessa è riuscire a capire quello che dici, anche a Santiago 1, capito Gianni? Pertanto lascia perdere i tuoi segnali, sono quelli che sono, un baracchino 3-1, un segnale, un altro 3-1, così via, per vari motivi, per vari, dopo che è stato costruito un altro modo, che ne so io, un po' perché è stato malomesso, sono tanti i problemi che riguardano i segnali, capito? Sappiamo noi, troppo ci riguarda, non più di tanto, insomma, ecco, noi lo chiediamo così a volte solo per una pura curiosità, ma in realtà non è che non dobbiamo, insomma, senza aver saputo il segnale, cioè dobbiamo lo stesso, non è un problema, capito? Qui ci interessa la radio, vediamo se è diventato a ritardo, vai! Ok, vediamo un attimino se riuscite a tirarmi fuori, almeno Giulio penso che mi dovrebbe tirare fuori. Vediamo un attimino, Gianni Chiaramonti mi ascolti? Bravo, ecco allora giusto per renderti conto su tutta la nostra diciamo discussione, giusto per farti capire che questo è un pezzo di filo da stendere, capito? Un pezzo di filo da stendere. Logicamente diciamo io adesso non sto pretendendo Santiago 9 perché non mi interessa, però da parte mia è già tanto e non è poco che tu lì a Chiaramonti mi ascolti. Posso dire anche il rapporto diciamo di potenza, io sono a 5 watt con picchi di modulazione a 15-20 watt, capito? 5 almeno, come si comporta questo apparato qua? Vediamo un po', Giulio. Ok, Sandro, va benissimo, io adesso ci sto ricevendo, Santiago 7, la radio 5 perfetta, con dei picchi a 9 o alle scarpe, perciò non è scarsa, va benissimo. Ecco Gianni, ad esempio, vedi, questa è la dimostrazione che si è abbassato di segnale, chiaramente, dall'apparato che stavo usando prima, che era una trastuglia, però la radio è rimasta sempre bella, forte, capito? Ecco cosa vogliamo intendere. giusto, oh Giulio, era giusto, diciamo, una prova, giusto per, diciamo, anche lì Gianni, che delle volte non bisogna, diciamo, avere, diciamo, una cinque ottavi, ma ripeto, dipende moltissimo, diciamo, dalla posizione in cui uno si trova. Diciamo che io, diciamo, sono su un terrazzo, diciamo, dove sono tutto abbastanza aperto, e ti posso dire una cosa, che di fronte a me, verso Sassari, ho un palazzo. In questo momento, diciamo, il polo caldo del filo è rivolto verso il nord, verso la Sinara. Il polo negativo, perché tu sai che c'ha due braccia, il polo negativo è direzionato verso lì Santa Teresa, Palau, quelle coordinate lì. Ma neanche, diciamo, verso Sassari. Ti posso dire soltanto che ci ho sprecato tempo con prove e controprove, quasi una settimana attaccato a lui. Certo, certo, è appunto quello che si deve fare tutti gli esperimenti e tutte le prove, e la prova è sempre fatta poi in quella migliore, questo è ovvio. Ma tutto questo è un progetto, si porta a farlo, perché se hai una certa esperienza, non hai certamente l'esperienza che è grande, ecco, l'avrei fatto anch'io così già, o all'età, e l'avrebbe fatto chiunque, sei certo, collocato in una certa maniera con le varie prove, e poi mantenendo il momento migliore, la posizione migliore, e soprattutto affrontandolo come si deve in un certo modo, capito? Certo, vediamo cosa ha fatto Gianni. Vai Gianni. Se riesci a tirarmi fuori, Santiago di 3, una radio di 2, ma proprio a pelo. E la radio è radio 1, 1.5, 2 al massimo, non di più Gianni, e adesso sei più basso di segnale, molto più basso di prima, perché prima eri 5.5, quindi adesso invece sei Santiago 4 qua, e io ripeto, sono sempre con lo stesso baracchino, e non l'ho cambiato, e sono lo stesso switcher, ma la radio si è abbassata anche di molto, ma però c'è da dire questo, si è abbassato anche il QRM, dunque per questo che riesco a tirarti fuori. Va bene, dai, ripeto adesso, faccio un taglio di passaggi, poi devo chiudere perché è arrivato mio fratello con mia cognata. Riprendi e guardi e poi fai girare per l'Alessandro. Non lo so Gianni, non lo so, io non ti posso dare un'affermazione completa, noi ci affidiamo soltanto a quello che tu ci stai confermando, che attualmente tu stai uscendo con 4 watt. Ma noi prendiamo per buono, diciamo, la tua sincerità. Poi che siano 4, che siano 10, che siano 1000, per noi prendiamo in buono la tua sincerità. Sandro. Che non sei neanche un watt, e allora scusa un attimino se ti devo contraddire, ma tu allora non sì, nel QTH a Chiaramonti. Vabbè, vabbè. Gianni, no, comunque, lasciamo perdere questo discorso, lasciamolo perdere. Ok, va bene, dimmi qua. Volevo intervenire perché, cioè, è un discorso nel quale ci si può stare mesi e mesi parlando di giorni di Chiaramonti. Ok, lui lì può mettere qualsiasi tipo di antenna, anche una direttiva. Chiaramonti è un paese molto alto, ma lui non abita sopra il paese, abita sotto, nella bassa valle. Nel momento in cui lui abita lì, può mettere qualsiasi tipo di antenna, perché Sassari, Sassari rispetto a Chiaramonti è ancora più basso. Quindi tu che sei nella piana di Porto Torres con un piano riflettente a livello del mare, fai una ricezione per poterlo ascoltare. Sassari non lo ascolta, lui si può fare i pezzi, non arriverà mai a Sassari oltre Santiago 3, ed è già troppo quando inizia a caricare con qualche volta dalla macchina. Ok, da casa sua lui, tranne me, in assenza di QRM non lo sente nessuno, non ce la farà mai lui arrivare a Sassari, ce la farà solo, come gli ho detto io, sfruttando potenza in antenna. Ok, non potenza ai microfoni, è potenza in cagazze, potenza in antenna, vuol dire che lui deve comprarci, ma te lo ripeto, già ne non te lo ripeto più, ti devi comprare un lineare che si chiama 501 o 2001, dopodiché tu arrivi a Sassari Santiago 9 e io ti regalo la radio se tu non arrivi a Sassari da Chiaramonti con 300-400 volte Santiago 9, ti regalo la radio. Mia, tu arrivi Santiago 9, capito? Perché arrivi Santiago 5, Santiago 5 a casa mia, in assenza di QRM, se il QRM è 9 io non ti posso rispondere, ok? Perché non ti sento, però se tu usi un lineare come il 2001 o il 501 da casa a 220 transitorizzato, senza continuare a comprare cagate su cagate, perdonami, ma io mi esprimo come mangio, tu non arriverai mai a Sassari. L'unica città che ti può sentire è Porto Torres o la piana di Ottavo, perché sono a livello del mare. Sassari non ti può mai sentire in quelle condizioni come vai tu, hai capito? Ok, allora aspetta un attimino. Adesso siamo tornati alla normalità. Ora, ora, ok. Ma Claudio, di questo discorso qua con Gianni Chiaramonti ne abbiamo parlato parecchie volte. Proprio diciamo per la posizione in cui si trova, io gli ho detto sempre questo, che il segnale, il suo segnale, diciamo, fa da rimbalzo, perché ha il monte, diciamo, dietro le spalle. Riesco, diciamo, a tirarlo fuori, ad ascoltarlo, diciamo, benino, bene, a volte bene. Diciamo io qui, perché diciamo sono, diciamo, in una piana vicino al mare, come per dire nella posizione in cui si trova Gigi, diciamo Ottava, che è una posizione abbastanza, diciamo, buona, abbastanza favorevole. Però logicamente il discorso che stavi facendo te, lui può mettere tutte le antenne che vuole, la migliore antenna sul mercato che possa esistere attualmente, che per poter arrivare a Sassari lui logicamente deve mettere, diciamo, deve metterci qualcosa sotto. Questo, diciamo, io a Gianni gliel'ho detto 10.000 volte. Lui adesso poc'anzi mi ha fatto un passaggio, logicamente tu Claudio non l'hai sentito, perché senz'altro non l'hai sentito. Io lo stavo tirando fuori con Santiago di 3, una radio di quasi 2-3, ma proprio a livello QRM, e adesso mi si è abbassato anche il QRM, e lui mi stava dicendo che era meno di un watt, meno di un watt. Gianni, non ti offendere, ma io ho i miei dubbi, capito? Non ti offendere, però ho i miei dubbi, che tu con neanche un fatto tu mi possa arrivare Santiago 3 a Paro Torres. Scusa un attimino, che cosa intendi tu per apparato serio? Ok, tu stai usando un Lincoln adesso, ok, perfetto. Quel Lincoln lì logicamente non sta andando solo con i suoi watt. Ok, perfetto. Stacca e fammi vedere soltanto con i 10 watt dall'apparato, perché con l'apparato non tira fuori più di 10 watt. Un attimo solamente, io mi devo lasciare, che ci sono parenti qua a casa, sono arrivato da poco fa e devo scendere giù a salutarmi, ci sentiamo, là. Ciao Alessandro, ciao Gianni, grazie per il questo, ciao Claudio, salutoni a presto, a presto, presto, là. Ripeti pure Claudio, e non so che vuoi dire, là. Ciao Giulia, a presto, ci riascoltiamo. Sandro, vai, vediamo questo cambio che fa, perché qua quando lui è attaccato, arriva Santiago 5, quando è attaccato, io lo sento lo stesso in assenza di QRM, vediamo quanto arrivi staccato. Ok, ma guarda, da parte mia, innanzitutto un salutone lì a Giulio, ciao Giulio, buona serata, se coincide a più tardi. E ti posso dire soltanto una cosa, Gianni, che da me ha cambiato, ma cosa ti posso dire, relativamente, non c'è tutto questo grande cambio. Vediamo un attimino Claudio. Guarda, adesso io QRM a 7, Santiago 7, io sotto il QRM ho visto il segnale che era 5-6, quando ho attaccato non lo sento per niente, quindi la matematica non è un'opinione, qua si parla di potenza, non si parla di antenna, non si parla di posizione. Io lui gliel'ho già spiegato una volta e se non mi vuole capire purtroppo è così. Per poter uscire da lì tu devi caricare oltre i 300 watt, li puoi caricare solo avendo un 2001 o un 501 della ZG, stazione base, a 220 transistorizzato, capito? Solo con quello tu puoi riuscire a Sassari, puoi arrivare a Sassari facendoti ascoltare, magari io ti ascolto meglio di tutti. Però gli altri ti ascoltano, non so come ma ti ascoltano, così non ti ascolta nessuno a Sassari, tu li trovi a te. È inutile che tu ti aliri o pretendi che la gente ti possa ascoltare sempre, ok? Non è così. Tu sei in una posizione molto, ma molto brutta, nonostante abiti a Chiaramonti, perché qua a casa mia arriva Alessandro da Nulvi, Santiago 9, ok? Santiago 9, però abita a Nulvi, sopra, nella collinetta di fronte ad Osilo, ok, tu abiti troppo in basso a Chiaramonti e se non carichi watt, 100 watt, non ti bastano per farti ascoltare bene, ok, bianco per me Sandro che c'è gente, se coincide ci sentiamo dopo, altrimenti buon fine settimana a tutti. Ok, ciao Claudio, se coincide più tardi, se no tutte le prossime. Va bene Gianni Chiaramonti, ok, riprendi. Quando è entrato mi dice sempre le stesse cose, che sì, ok, no, adesso ti ascolto bene, un Santiago di 8, una radio di quasi 5, va benissimo adesso come stai andando adesso, ma Gianni, logicamente, come ti ho detto già più di una volta, logicamente, se tu mi dici aglio, io prendo per buono aglio, se poi tu mi dici 100 watt, io prendo per buono 100 watt, diciamo, poi spetta a te, diciamo, in tua coscienza, o nella tua operatività in cui ti trovi nel momento in cui stai operando, capito? Nelle tue condizioni in cui stai operando, dipende sempre da te, capito? Tutto lì. Logicamente ti devi rendere conto che tu lì a Chiaramonti, dove ti trovi, è una zona, diciamo, non favorevole, Per me magari potrebbe essere favorevole perché io mi trovo, diciamo, in una posizione abbastanza aperta, poi sul livello del mare. Per Sassari, diciamo, ti trovi molto, molto negativo, e quindi, diciamo, se al momento, adesso, per dire, ne hai 100, per farti sentire adeguatamente da Sassari, magari ne devi mettere altre 400-500 sotto, per dire. Buonasera, Gian Maria. Sa, un controllo radio mi interesserebbe, fa la cortesia. Comunque, buonasera e ben sentito. Chiappa. Ciao Gian Maria, buonasera, ben ascoltato anche te. La radio per te è, diciamo, 5, però leggermente, diciamo, cuffa. Cuffa? Aspetta, vedo un po'. E adesso? Prova a fare un passaggio un po' più lungo. Ok, 1, 2, 3, prova avanti, Sandro. Sì, sì, ti fa questa modulazione, diciamo, non è chiara, diciamo, è, ti capisco, però è presente quando parli dentro una scatola, dentro un barattolo. Capito, aspetta un attimino, vediamo un po', abbassata appena, e adesso? Uguale. Allora, da controllare la capsula, va bene, grazie ancora, buon proseguimento, ci sentiamo, grazie ancora. Ok, ciao Gian Maria, alle prossime. Ehi, vieni avanti. Ma ti ascolto, diciamo che ti sei abbassato di segnale di radio. Allora, diciamo che ti sei abbassato di un decibel. Da 8 sei passato a 7. La radio si è abbassata un bel po', diciamo. Sì, vabbè. Gianni, ti continuo a dire, queste valutazioni sei tu che le devi fare, perché lo sai solo tu nelle condizioni in cui, diciamo, stai operando, stai uscendo e con che cosa stai uscendo. Se per dire io fossi stato lì e avresti fatto queste prove, ti avrei detto: no Gianni, non è così come stai dicendo tu, no, così potresti migliorare ancora, no, così è il massimo, per dire, capito? Però lo sai solo tu come stai operando. Eia, va bene, ok, dai Gianni. Va bene, ok, dai, comunque ti devo lasciare che devo fare altre cose, sbrigare altre cosettine. Dai Gianni, se coincide a più tardi. Che? Buonasera, Massimiliano Archimede. Ciao Massimiliano Archimede, e allora tutto bene? tutto bene, finito di fare la torta. Complimenti per la ricetta di ieri, perché ha suscitato estremo interesse e soprattutto un plauso. Mi fa piacere per te, allora avrei fatto una bella figura, scusa. Faccio sempre una bella figura, ma ieri sicuramente è stato un accento, capito? Sono felice e contento. Assolutamente sì, assolutamente sì. Fra l'altro, devo dire la verità, la cosa è stata esaltata ancora di più dalla ricetta per fare il mirto di Gigi Vulcano. Devo dire la verità, un maestro nella distillazione, nella macerazione, non nella distillazione. Hai visto? Ci sei uscito bene, ci sei uscito, no? Io invece ho appena finito di sfornare la torta al cocco con la Nutella in mezzo. Ah, le trigliceridi di papam! Ti serve uno che è bravo a consumare il tuo mirto con la speranza che sia buono. Te lo mando io, un mio collega, guarda, se ne beve una bottiglia al giorno, quindi te ce la tieni avanti poco per Natale. Guarda, io innanzitutto ti saluto, ciao Claudio, e sarò lieto di omaggiarti di una bottiglietta se ti fa piacere. Su questo non ci piove, ti ringrazio anticipatamente. Comunque tutto dipende appunto dal fatto che ci sia una buona macerazione e allo stesso tempo anche un buon alcol per far sì che il tutto sia fatto alla grande. Ok, comunque la ricetta di Benedetta Parodi, come si chiama? Benedetta Parodi, boh, non lo so, è andata bene, quindi sono contento per te. Va bene, sto facendo l'albero di Natale e quindi vi ascolto molto volentieri e vi auguro a tutti e due il buon proseguimento di questo. A te Massimiliano. Ehi, ciao Claudio, mi hai sentito? Noi ancora niente albero. Eravamo anche oggi in ospita, ci tocca anche domani mattina, perciò non siamo in vena per il momento, poi già vedremo un attimino di organizzarci appena possibile, va bene. Comunque, un ben sentito Claudio. A te Antonio. Scappa però Claudio, l'uomo non deve fare l'albero, spetta alle donne, l'uomo deve solamente mettere il puntale per usanza, che spetta appunto a porlo al capofamiglia, tutto il resto è noia, capito? Cioè lì quello è proprio l'imprinting, dire ok, l'albero è stato fatto bene, e metti il puntale, finito. Io parto il puntale che sarà proprio la finitura definitiva, sto mettendo la palle. E c'hai ragione. No, adesso dando una mano perché è un casino veramente. E quindi siccome era dentro la scatola quest'albero, l'ho dovuto tutto aprire, riaprire come dai, tutti i ramettini, mettere in secco, adesso si stanno organizzando. Una cosa certa, gli ho detto, state attenti perché se mi riempite la casa di brillantini e di cose che mi dico voi, a voi all'albero, questo non ci piove. Dai, le do una mano, se coincide ci sentiamo dopo, altrimenti buon proseguo di questo a tutti. Ciao, ti ringrazio. Riprenditela Max. Ehi, mi stavo un attimino rilassando sulla sedia. Mamma mia, sono stanco. Insomma, non riusciamo un po' a uscirne da questa cosa, un po' di tregua, no? Altro che tregua. Siamo nel mezzo della bufera, vabbè, piano piano. Vabbè, il mezzo della bufera significa che siamo quasi a metà della battaglia vinta, assolutamente. Vabbè, però ci siamo ancora in mezzo, il brutto è quello, vabbè, cioè, ne usciremo. Vabbè, dai, vado a vedere se la torta non si sia sgonfiata, tirata fuori, gli ho messo le granelle di cocco sopra, vado a vedere che non si sia afflosciata. Sono da pasticcere e passi a pasticcione. Dai, sono qua in radioascolto nel caso mi ritrovi qua. Eia, no, speriamo il pasticcione, no? Anche perché questa qua è la terza che faccio così, con questo tipo di ricetta al cocco. Solitamente mi escono buone. Da provare, dai, quando faremo la cena ufficiale sapremo chi fa il dolce, dai. E io, va bene.